Ripercorrere rapidamente le vicende del liberalismo belga all'indomani della rivoluzione del 1830 fino al 1890. Dal 1831 al 48 i liberali belgi, insieme ai cattolici belgi, in una specie di Union Sacrée, incoraggiata dal re Alberto I, dal re Leopoldo I, hanno provato di mantenere l'equilibrio fondamentale tra, da un lato, i tre poteri costituzionali e, dall'altro lato, tra la Chiesa e lo Stato. Questo equilibrio era stato inaugurato con la Costituzione del 1831. Questa union sacrée tra liberali e cattolici, che si potrebbe anche qualificare di mariage de raison, finisce con il 1848. Da questo anno in poi, fino al 1884, ci sarà nel Belgio un'alternanza al potere dei liberali e dei cattolici. Il 1884 coincida con la fine dell'ultimo governo liberale che avrà il Belgio prima della guerra del 1914. Quest'ultimo governo liberale, diretto da Ferenc Bon, è anche stato l'ultima tentativa dei liberali belgi di disarmare, innanzitutto nel campo dell'insegnamento, questa Chiesa che, secondo la famosa parola di von Arnim, era diventata una Chiesa armata nello Stato disarmato. Vale a dire anche che quest'ultimo governo liberale è stato molto radicale, allora che finché il liberalismo belga era rimasto abbastanza moderato. Per illustrare questa radicalizzazione del liberalismo belga basta ricordare la rottura delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede nel 1880. Questo periodo di radicalizzazione del liberalismo belga è anche quello del trionfo della massoneria e del libero pensiero al potere. Per esempio, molti erano in quel tempo i parlamentari liberali che avevano studiato all'Università di Bruxelles, università fondata nel 1834 sul principio del libero pensiero, che è rimasta fino ai nostri giorni, diciamo, la Magna Carta dell'Università di Bruxelles, che sempre oggi esiste con un statuto basato sul libero pensiero. Dopo questi brevissimi appunti, proverò di riassumere quello che concerne i contatti tra il liberalismo belga e l'Italia, dopo il 70. Per non pochi liberali belgi, l'Italia, all'indomani della sconfitta francese di Sedan, è stata una grande speranza. Mi spiego, il liberalismo belga, che guardava con sdegno il secondo impero in Francia, ma che nel frattempo aveva paura della Germania, che soprattutto veniva di constatare con quella guerra franco-prussiana che una guerra generale nella quale la neutralità del Belgio sarebbe stata violentata era possibile. E allora il Belgio, diciamo il liberalismo belga, vedeva l'Italia come l'unica potenza latina capace di salvare la pace in Europa. Questo punto mi pare abbastanza importante da sottolineare, perché dopo il 70 il liberalismo belga, ma anche in Inghilterra, ci vede questo corrente, considerava che la civiltà latina era in decadenza, a eccezione però dell'Italia. Questa idea fondamentale, diciamo, di una missione dell'Italia nell'Europa meridionale è stata divulgata in Belgio, ma anche in tutta l'Europa, da un economista, giurista e pubblicista belga che ha nome Émile Tollazé. Questo protestante liberale, che è stato uno dei maggiori esponenti del liberalismo belga, era notissimo nell'Europa del ventennio 1870-1890. Era stato allieve di François Huet, un filosofo francese che sognava ogni tanto di unire in una stessa filosofia Descartes, Le Christ e la Commotion. Era stato anche molto influenzato da Edgar Quinet, Eugène Sue e Max Scheler nel campo filosofico e da Frédéric Bastiat e Jean-Baptiste Say nel campo dell'economia. Era l'amico, solo per fare qualche nome, di Gladstone, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Dupont-White, Chamberlain, Karl Goschen, Strossmayer, Acton, eccetera. Era anche uno dei maggiori collaboratori della Revue des Deux Mondes e nel mondo anglosassone della Contemporary Review e della Foreign Review. Aggiungerò che, come accennato da uno dei suoi biografi, Lavley a été, à une époque de sa vie, l'intellectuel qui avait le plus de contact épistolaire avec ce que l'Europe comptait de plus important dans le monde de la politique, de l'économie et du droit. In quanto riguarda l'Italia, Lavley era in stretto contatto epistolare con Alfieri, con Luzzatti, Lambertini, Cornighetti, Diomede Pantaleoni, Peruzzi, Francesco Cortolotari, Angelo De Gubernati, Scialogia, eccetera. Questo basta fare la... tutto questo casteggio del Lavley con l'Italia esiste in Belgio, io sto cercando adesso di ritrovare in Italia queste lettere della... I contatti della Lavley con l'Italia non erano soltanto epistolari. Vorrei sottolineare che, per esempio, i suoi Elementi economico-politici sono stati tradotti da Alberto Herrera e che questo libro è stato utilizzato nei licei italiani. È anche stato tradotto Il socialismo contemporaneo della Lavley. Io farò presente anche che il Lavley ha collaborato al nuovo giornale degli economisti di Alberto Zorro e alla Revue Internationale del De Gubernatis. Fu su questa ultima rivista che viene pubblicata in Italia la famosa polemica tra il Lavley e il Spencer a proposito del libro The Members of the States. Riassumerò adesso le posizioni del Lavley sull'argomento italiano. Farò molto brevemente. L'idea fondamentale del Lavley era che l'Italia avrebbe dovuto essere il paese il più anglosassone dell'Europa meridionale, cioè una nazione protestante, come lo scriveva già nel 1862 in una lettera a Edgar Quinet. Però bisogna aspettare il 1871 e gli anni successivi perché venissero pubblicati i suoi saggi su questo argomento. Per realizzare questa idea di un'Italia anglosassonizzata, forse la parola è giusta, il Lavley proponeva una serie di riforme pratiche, dove si ritrovano non poche idee del Tocqueville. Queste riforme sono insegnamento per tutti, questo lo scriveva nel 70, condizione sine qua non, prima di consentire il suffragio universale in Italia. E allora, in una lettera del 17 ottobre 1870, Lavley scriveva al Peruzzi, a proposito di questa questione dell'insegnamento, e faceva la lezione della guerra franco-prussiana, scriveva: l'Allemagne l'ha emporté, sul 17 ottobre, l'Allemagne l'ha emporté, parce que tous, depuis le chef jusqu'au dernier soldat, avait plus d'instruction, plus de connaissances que les Français. La France consacrait 50 millions à son opéra et elle refusait 1 million à Drouy, Drouy qui est la ministre de la Cour et de l'Instruction du French, pour bâtir des écoles primaires. Le Württemberg dépensait plus pour les hautes études que la Grande France. L'Italie a déjà fait beaucoup pour répandre l'instruction, mais elle doit faire plus encore. Secondo punto, la bipolarizzazione dei partiti politici, quello che scriveva la Plena del 71 in un pochissimo saggio sulla Revue del Monde, dei partiti politici in Italia. Terzo punto, la Plena difendeva l'idea dei ministri funzionari, cioè come in America, dei burocratici e non dei ministri politici. Diceva la Plena, l'Italia non ha bisogno di ministri politici perché ci sono troppi problemi, troppi cambiamenti. Poi c'era anche la decentralizzazione e la regionalizzazione dell'Italia e anche la difesa delle minorità linguistiche. Per esempio il Lavley aveva saputo che sono così delle, diciamo abbastanza strane idee, che nel sud dell'Italia si parlava ancora in greco. E allora lui proponeva, e lui propone anche qualche lettera, proponeva un statuto speciale per questi... Ma non abbiamo abbastanza. Diceva, questo è un argomento penso molto conosciuto, di rinunciare a Roma capitale perché, come lo scriveva il suo amico italiano, Roma ossimizzata sarebbe stata una testa troppo grossa per un corpo ancora debole. Proponeva anche all'Italia di rinunciare alle colonie, e qua si ritrovano le idee di Frédéric Bastiat e Jean-Baptiste Say sull'opportunità delle colonie per l'Europa. Infine, la neutralità era un altro punto che l'Avrei accennava in quanto riguardava l'Italia. Diceva che l'Italia aveva bisogno di un esercito come quello svizzero, cioè democratico, con un alto livello di istruzione elementare anche della scuola media. Nel campo economico, invece, la Lavley che però, o appunto, era cattedra del socialista, aveva firmato la dichiarazione finale del congresso di Aachen del 1873. Incontrava le idee dei liberali conservatori italiani e anche, come si è detto nella relazione del professor Ari, le idee del gruppo considerato progressista della rassegna settimanale di Sonnino e Franchetti, cioè che l'agricoltura era l'unica attività economica per l'Italia. Lo pouvait imaginer. Je peux imaginer, c'est molto semplice. Succede sempre. Però la Lavley andava al di là di quello che pensavano i partigiani dell'Italia agraria, nel senso che proponeva, ispirandosi del modello qualche regioni svizzere, di trasformare la latifundia dell'Italia meridionale in almeno o comunità, che una volta in Umbria erano state chiamate università. Ecco, questi sono veramente brillantemente riassunti le idee della Lavley, che come ho detto prima, mi pare che questo è importante, è stato noto non solamente in Belgio ma anche in tutta Europa. Allora, prima di concludere, vorrei ancora dire qualche cosa degli altri aspetti del contatto tra il liberalismo belga e l'Italia. E questo è solamente un elenco per dare esempi degli altri campi dove ci sono stati contatti. Sono stati contatti importantissimi tra l'Italia e il Belgio, il seno dell'Unione Europea Latina, che però è un fatto che dovrebbe essere abbastanza conosciuto, ma che mi pare è stato molto studiato. C'è anche la fondazione dell'Istituto di Diritto Internazionale, che è stato creato da ebrei insieme agli italiani nel 74. È stato creato con i maggiori esponenti del liberalismo giuridico belga, ecco, faccio il nome di Osvaldo Mauro, che è stato e che è stato sempre molto studiato dai giuristi italiani. Osvaldo Mauro, come bisogna era questo? Era a Gao, nel Belgio, poi dopo è stato trasferito a Losanna. Era per provare di codificare il diritto internazionale. Allora, da Caldo Berger si ritrovano comunque Laurent, Roland Jacquemins, Emile Delarbier ed altri, e dal lato italiano Pasquale Stanislao Mancini padre e Mancini figlio. Sono stati i fondatori di questo istituto. Bisognerebbe anche studiare il movimento pacifista europeo e gli stretti contatti tra il Veneto e la Lega Lombarda della Pace del Moneta. Bisognerebbe anche parlare dei molti studenti italiani che venissero in facoltà di ingegneria a Liegi, dove imparavano, diciamo, il modello belga di organizzazione industriale. Allora a Liegi, dove era professore Laulet, che insegnava economia politica, ci sono contatti molto interessanti tra gli studenti e il professore. È veramente un centro di cultura dove Laulet conosceva benissimo l'Italia, infatti amava molto l'Italia, lo scriveva sempre in Italia. L'Italie doit être la deuxième partie de tout homme civilisé. Era buono. Ci va anche Hübner. Allora, infine, la culla dell'uomo moderno, descriveva Hübner. E finisco con questo. Vorrei fare un'allusione agli sforzi alla fine degli anni 80. Di Carlo Alfieri di sostegno, anche se quello, alla fine degli anni 80 era molto anziano, di Emile Delarbier, della baronessa Blas de Bury a Parigi, che aveva giocato un ruolo molto importante nella cultura liberale francese, per fare il ponte tra l'Inghilterra e la Francia. E poi qualche inglese che hanno provato di sistemare un partito liberale europeo. Penso che quasi uno delle prime sforzi per creare quello partito e quel governo con un rischio di fare qualche cosa. No, non di riattivarlo, di studiarlo. Ecco, e chiudo con questo florendo liberale europeo, in articolo comunicazione. Thank you.